Ore 7 spaccate. Che precisione, ragazzi. Precisione matematica. Un buongiorno dalla voce dell'Ariele, in compagnia anche stamane del reduce Spadino, al mixer di Rock FM. Questo il nome della stazione radiofonica che ha avuto la folle idea di affidarci l'apertura mattutina delle trasmissioni. Un saluto a Chuck Bird. Chuck Bird chiude la notte, via, 6-7. Noi ci spariamo il 7-9, che coniugando i verbi noi ci facciamo il 7-9 poi suona sempre un po' male. Buongiorno dall'Ariele. Sapete come si chiama questa trasmissione? Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. Spegnete quella luce, che non mi piace trasmettere con la luce accesa. Voglio trasmettere al buio. Pane, burro e rock and roll. Benvenuti, benvenute. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Anche quest'oggi con noi Roberto Freak Anthony. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Che fortuna averci incontrato così, per caso, opla lì opla là, smanettando sulla vostra autoradio. Track, vi siete trovati Rock FM. Fortunelli. Allora, abbiamo rispento le luci, adesso sì che c'è il clima giusto per iniziare. Quello bello buio, quello che quando tento di guardare i tasti della tastiera del computer non li vedo. Che ormai quasi riesco a riconoscerli a memoria. Potrei fare la dattilografa, Spadino. La dattilografa, tra l'altro, nota. Buona musica per queste due ore e parecchie stupidate. Essendo venerdì, schiacceremo sull'acceleratore particolarmente per gettarvi nel weekend alla massima velocità. Che oggi mi è venuto così l'inizio di trasmissione. Parecchie sorprese, ne parleremo con calma. Ufficializzo l'inizio della 25esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Venerdì 5 di ottobre. Quest'oggi si inizia 1, 2, 3, 4. Così. Rockaway Beach, Ramones. Primo saluto di quest'oggi al nostro tassista di fiducia, Tino. Eccolo là, presente negli studi di Rock FM. Con, insomma, noi serviamo pane, burro e rock and roll. i radioascoltatori e le radioascoltatrici più gentili invece ci servono. Abriuscita, garda carda, grazie Gado. Patente numero, fammelo a gesti, se 135. E sta preciso. Intanto vi ricordo il numero di SMS 335 100 77 77. Confesso di avere qualche piccolo problema invece per quanto riguarda la connessione a internet, che in questo studio non mi è concessa, non so perché, perché nella stanza a fianco invece sì. Sono cose che succedono a Rock FM, Garavelli, diciamolo. Rock FM ha delle strutture che un po' sono rock e un po' no. Un po' a macchia di leopardo. Bravo. Questo vuol dire che questo computer non è rock. No, questo computer è rock perché non funziona. Quindi lo teniamo. L'altro di là che sta funzionando, bisogna buttarlo via. Bisogna buttarlo via perché questa dedizione al lavoro non ci piace di quel computer. O si spengono tutti o no. Ti piace come idea? È colpa del pistola. Da quando è arrivato lui ieri è successo questo. Salutiamo anche il pistola da Pistoia, il radioascoltatore del pomeriggio di Rock FM, perché il tassistatino ci porta le brioche, pistola pistola ci porta il salame, quindi siamo messi, stiamo a posto per tutto il giorno qua a Rock FM, eh? Chissà se qualcuno alla sera a Claudia portano i superalcolici, quindi guardate, noi stiamo veramente precisi qui a Rock FM, ci mancano solo le brandine, ci mettiamo qui e stiamo a posto, va bene. Vi ho ricordato le coordinate, vi attendiamo anche quest'oggi per costruire insieme questa nuova avventura targata pane, burro e rock and roll. Si chiamano Super Tramp e questa è Give a Little Beat. Buona giornata. Yeah, oh, oh, ah, ah. To share, so send a smile. garantiamo una puntata ricchissima per questo venerdì mattina. Il consiglio che do agli ascoltatori del mattino, agli ascoltatori della diretta, i famosi ascoltatori frammentati, così vi chiamano chi sa leggere i dati, chi fa il tecnico dei rilevamenti, senza offese per nessuno, eh? Cioè, essere un ascoltatore frammentato non è nulla di male, solo che sappiamo che avete tante cose da fare, quindi non è detto che riusciate a gustarvi tutta la puntata. Il consiglio che vi do all'alba di un puntatone come quello di oggi, e poi magari se vi perdete qualcosa, correte nel corso con calma del pomeriggio, quando avete qualche minuto a disposizione, a riascoltare cosa vi siete persi su RadioRockFM.com. Intanto tanti già i saluti, il mitico Gian in primis, lampioni già spenti, questo ci fa sapere il notturno da Firenze. No, qui ce l'abbiamo ancora, tranquillo. Si sente dal tono della mia voce, finché c'è il lampione sono tranquillo, e quando si spegne che vado un po' così. Strombazzata generale viene chiesta dal gruppo d'ascolto Vespisti, eccotela lì. Orgoglio invece, gioia, contentezza per il mitico Andrea che ci aveva chiesto una strombazzata. Io ero stato vago ieri, aveva l'udienza per l'affido congiunto del figlioletto Gianmarco, mi arriva l'SMS qualche secondo fa: tutto a posto ragazzi, il giudice quando ha visto la patente davvero rocker ha detto, se me lo diceva prima evitavamo tutto il processo. Andrea, un bacio a te, a Gianmarco e a sto punto pure al giudice, dai. Dovete stare attenti, io ci credo che l'ha fatto Andrea, capito? È andata bene che non ti ha fatto il trattamento sanitario obbligatorio, Andrea. Guarda. C'è poco da scherzare su ste cose. Proseguiamo con Lenny Kravitz, Always on the Run. 5 ottobre, che cosa è accaduto nel corso della storia il 5 ottobre? Lo scopriamo tra poco con Freak Anthony. We'll be right back. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sono ancora le prime ore della giornata, ma è venerdì, tra poco ci si tuffa a testa bassa in uno strepitoso weekend. Thanks God, it's Friday. Dice bene, caro Freak, saluti il suo pubblico. Allora, no, colpo di scena, no, sì, ecco. Esci da questo corpo. No, io lo devo dire, esca da questo corpo. Ah, sì, sì, allora un saluto. Facciamo anche un saluto. Dal grande... Roberto Fricantoni, ecco. In arte, Mike, buongiorno. Guardi che se le va di fare l'almanacco, quest'oggi iniziamo con una notizia che so a lei piacerà tanto. Love, love me do. Eccolo lì, you vedi. Know I love you. Era il 1962, so nel 5 di ottobre, love me do. Quando nel Regno Unito esce whoa, whoa, whoa. Il primo singolo a 45 giri dei Beatles. Love, love me do, ta-tan-tan. You know I love you. So please, ecco perché i Beatles hanno fatto un sacco di soldi e gli Schiantos no, ecco, era lo stesso ecco. Anno. Perché loro erano intonati e Freak Antoni no, non tanto. Anche lei, poi i Beatles ormai sono entrati dell'immaginario di Pane, Burro e Rock and Roll dopo queste strepitose traduzioni. Sì, sì, noi amiamo i Beatles e anche i Rolling Stones. Restiamo nello stesso anno, lo stesso giorno, sempre nel Regno Unito usciva il primo film della serie Agente 007, James Bond, licenza di uccidere. Da-da. Lei che James Bond ricorda con più affetto? Beh, naturalmente quello Sean classico, l'altro. Quello di Sean, però insomma onore al merito, anche gli altri sono stati bravini. Certo, ha una marcia in più, Sean, quindi... Il mitico Sean Connery. Sean Connery, 007, James Bond. Qual è il suo nome? Il mio nome è Bond, James Bond. Era perfetto, perché era veramente perfetto. Abbiamo iniziato... con due bellissime notizie, chiudiamo invece con una notiziaccia. Era il 5 di ottobre del 1992, sconcerto e polemiche per il gesto provocatorio di Sinéad O'Connor in diretta televisiva alla NBC durante il programma Saturday Night Live. Strappa una foto dell'allora Papa Wojtyla mentre interpreta War, un brano di Bob Marley, e fece scalpore, se sì, lo ricorda. Fece scalpore, ma la cosa era un po' miserevole, ma non tanto per la critica, ognuno ha il diritto di esprimere quello che vuole, ma poi perché Sinéad O'Connor poi si è rimangiata quella cosa, mm-hmm. ci ha ripensato, poi si capiva benissimo che era promozione, allora dai, se devi essere promozionale inventati qualcosa di più sconvolgente, di più serio, e poi scherza con i fanti ma non scherzare con i santi, colpo di scena. se lo vuoi, vieni a prendertelo. Whitesnake, come on, get it. Diretta del 5 di ottobre con l'Ariele. Il saluto anche a Leti, altra gentilissima radioascoltatrice che ci ha riempito di brioche, caravelle. Anche quest'oggi facciamo il bagarino a fine trasmissione. Venite pure, aiuto, muoio, negli studi di Rock FM, che quest'oggi distribuiamo la colazione, ma quella seria, cioè quella vera, brioche, pasticcini. E va bene, che ci volete fare? Si avvicina il nostro compleanno, i 17 anni di Rock FM, e quindi l'affetto dei radioascoltatori cresce, gentilissimi. Speriamo di... Beh, oh, almeno loro, mannaggia. Speriamo di ricambiare al meglio con questa festa di domani sera. Intanto tantissimi i gruppi di ascolto che già si fanno sentire via SMS. La buona Filippo da Viareggio che chiede se è arrivata la sua cartolina da Parigi. Ne sono arrivate tante da Parigi, Filippo. Chiunque di voi ha spedito una cartolina, sappiatelo, le leggeremo tutte. Poi io spero voi riuscirete ad ascoltare l'intervento dedicato alla vostra cartolina. Comunque sì, Filippo, mi sembra di ricordarla. Anche quest'oggi ne leggeremo qualche tripletta. Anzi, Freak, inizia ad andare a scegliertele, che nella prossima mezz'ora le leggiamo. Yuri da Ravenna commenta: ieri è stato grandioso sentirti la mattina in radio e vederti il pomeriggio su Rock TV. Spero che prima o poi venite in Romagna. Grazie Yuri. Mi ero pure dimenticato di avvisarvi ieri. Che scortese che sono. Vabbè. Ma attenzione. Questo è il messaggio della giornata. Lo firma Andrea. Attenzione. Ho iniziato a raccogliere le firme per appoggiare la candidatura di Freak Antoni per il Nobel. Il prossimo passo sarà il telegatto al DJ Ariele. E ci gettate le idee così, come se piovesse. Grazie Andrea. Allora proseguo, devo per forza annunciarlo questo brano. Arrivano da Liverpool. Si chiamavano Beatles. E il brano che sto per proporvi si chiama Let It Be. Questo è il brano che abbiamo in scaletta. Ma cosa ne pensate se prima della fine della diretta di quest'oggi, che ne so, pensassimo che se anziché a Liverpool fossero nati a Boladello, probabilmente non sarebbe stato Let It Be, sarebbe stato Lascia Che Sia. Forse lo scopriremo più tardi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Thank you.